Capitolo VII. Credere che tanto il bene quanto il male hanno come causa il decreto di Allah. La provenienza dal decreto divino del bene e del male è l'oggetto del sesto articolo del credo islamico. Non sono quindi né il caso, né la fatalità, né la fortuna, né la disgrazia le cause degli avvenimenti. Il gatto nero che attraversa la strada non è la causa di qualche sventura, né l'aver trovato un quadrifoglio oppure un ferro di cavallo è la causa di qualche guadagno o evento lieto. Tutto quello che accade, sia nella vita dell'universo, sia nella vita dell'uomo, dall'evento più insignificante a quello più importante, fa parte di un disegno imperscrutabile di Allah, alla cui onnipotenza tutto è sottoposto. Egli ha potere su tutte le cose e alla cui conoscenza nulla si sottrae. Egli ha conoscenza di tutte le cose. Il decreto di Allah, potente egli è ed eccelso, ha dotato l'uomo della capacità di compiere il bene e di compiere il male in base a una scelta volontaria. L'uomo non è costretto a compiere il bene e non è costretto a compiere il male. Se così fosse, non ci sarebbe né merito né colpa. Per decreto divino, l'uomo è responsabile della sua condotta. Se il comportamento esprime il rispetto delle regole di vita date da Allah per il bene dell'uomo in questa vita, il decreto divino, con la misericordia di Allah, rende meritevole l'uomo di entrare nel paradiso, mentre se il comportamento esprime il disprezzo delle regole di vita date da Allah per il bene dell'uomo in questa vita, il decreto divino rende meritevole l'uomo di andare all'inferno. Anche le libere scelte dell'uomo, che sono alla base della sua responsabilità, appartengono a un disegno imperscrutabile del volere di Allah, di cui Allah si serve per creare la realtà storica delle vicende individuali e collettive dell'uomo. Dalla fede nel decreto divino si esprime il rifiuto di attribuire poteri soprannaturali a cose, persone o circostanze, come avviene invece nella superstizione, per effetto della quale si attribuisce a cose, persone o circostanze senza alcun nesso la causa di fatti positivi o negativi. La libertà di scelta è un dono e una grazia della provvidenza divina, di cui l'uomo non perde il possesso e il godimento fino a quando sceglie le vie del bene, mentre quando fa malgoverno di questa facoltà e preferisce le vie del male, la sua libertà di scelta viene menomata fino al punto di mettere l'uomo nell'impossibilità di uscire dalla prigionia della trasgressione. Dalla prigionia della trasgressione l'uomo può essere liberato allora soltanto dalla misericordia di Allah, che restituisce la libertà a chi si pente con cuore sincero di averla perduta. Contro le insidie della superstizione, il profeta insegnò questa preghiera: «O Iddio, non porta il bene nessun altro che te, e non tiene lontano il male nessun altro che te. Non c'è né potenza né forza, se non per volere di Allah, l'Altissimo e Sublime. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant, wa la yazhab bis sayyiat illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa billahi l'aliyyul azim». Il concetto espresso dal sesto articolo del credo islamico è sintetizzato mirabilmente dal proverbio italiano: non si muove foglia che Dio non voglia. e la lode appartiene ad Allah, il Signore e padrone di tutti gli universi.